2 giugno è la festa della Repubblica e che c'è una Repubblica che ha ripudiato la guerra nella sua Costituzione, nascendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e delle sue decine di milioni di morti. E il 2 giugno domenica, il giorno dopo, noi ci convochiamo in piazza alle 6 alla vigilia delle elezioni europee che si terranno il weekend successivo. Ci pare che i temi della guerra, Ucraina-Gaza, siano da una parte sui titoli della comunicazione mainstream in termini di cronaca, di fatti eclatanti e sempre più preoccupanti. Non ci pare che questo tema sia affrontato con sufficiente schiettezza e sincerità e nella campagna elettorale, se non per quegli messaggi, quegli slogan che sono utili un po' a provare a raccogliere qualche voto in più. Ed è per questo che voi avanzate 8 domande precise. 8 domande precise perché la sfida è duplice. Una, di far rispondere a tutte le liste. Potremmo dire chi risponde e chi no. Ma due, di rispondere su tutti i punti. Cioè, noi siamo consapevoli che rispetto a qualcuno di questi punti ognuna delle liste ha qualche coniglio nel cilindro da tirare fuori e qualche soluzione o proposta da vantare. Però le storie, le identità dei movimenti politici sono ben chiare a tutti e spero che come cittadini saremo tutti ben avvisati e critici. Allora, al di là della capacità di rispondere qualcosa sulla leva militare piuttosto che su qualcos'altro, la sfida è quella di chiedere qual è la visione complessiva, cioè qual è l'idea organica di una politica europea che affronti il tema della pace e del disarmo, o meglio, che affronti il tema della guerra che piano piano sta, come dire, entrando nel continente e che, se diamo retta a qualcuno dei nostri leader, domani la faremo. E infatti stiamo vedendo cadere anche dei tabù. Adesso si parla di attaccare la Russia direttamente sul suo territorio. Insomma, abbiamo visto che alcune dichiarazioni di leader spingono sempre di più per un'escalation. Sì, Macron, Stoltenberg e altri lo fanno. C'è un po' questa situazione. Siamo in balia di alcune decine o centinaia di leader, capi di Stato, capi partito, capi di qualche cosa, che, diciamo così, hanno, mi pare, un pessimo rapporto intanto con il confine del proprio ego e poi con la poltrona e le risorse, i soldi che girano. Mi pare che andiamo dietro miti, dietro a queste strade che ci vengono aperte, dritti in bocca alla guerra. Riportiamo un continente europeo nato sulle macerie, sui cadaveri di 80 milioni di morti di 2 guerre mondiali, esattamente lì dove eravamo 100 anni fa. Allora mi sembra che siamo consapevoli che quello che facciamo potrà provocare qualche reazione e a volte qualche irrisione, perché ci siamo abituati, soliti pacifisti, eccetera, eccetera. Noi penso che come artigiani di pace, come società civile, bisogna che un pochettino alziamo la voce, che facciamo sentire e capire che così non va, che non va bene, che bisogna cambiare. Chiediamo una visione, chiediamo che le dirigenze si facciano carico di questa visione, questa rincorsa alla pancia, al consenso facile e agli interessi del sistema politico-militare dislocato in molte parti del mondo, si sta portando dritto dritto nella tragedia, che oggi non c'è, è solo annunciata per noi. In Ucraina e a Gaza, in Palestina e nei territori occupati è un calvario quotidiano, però ma piano piano mi pare che allegramente ci stiamo arrivando, ci arriveremo. Oggi sembriamo delle Cassandre e potremmo essere ascoltati con un sorriso di ironia, ma di fatto io penso che tra molte massai, operai, impiegati, studenti o pensionati, queste domande ci siano dentro alla testa della gente. Il problema è che non si sente nessuna risposta. Ovviamente tra i vostri quesiti ce n'è anche uno che riguarda le spese militari, ma più in generale quello che colpisce è che proponete una sorta di cambio di paradigma anche nelle relazioni internazionali. In realtà mi pare che come europei dobbiamo capire chi siamo, che cos'è l'Europa, che cosa vogliamo, come la vogliamo questa Europa. Io faccio sempre più fatica, dico io, ma diciamo i movimenti, le persone che rappresentiamo, facciamo ovviamente, e non credo solo noi, sempre più fatica a identificarci in questa idea di Europa. Per cui sì, è una questione di relazioni internazionali, però nelle relazioni internazionali ti poni quando hai chiaro chi sei e che cosa vuoi. Allora si parla di esercito, ok, perché? Perché una comunità di destino e di appartenenza si sa difendere, non c'è un esercito. esercito, ci sono tanti eserciti, ci sono sprechi di spese. Ok, va bene, ragioniamo, perché in termini di realismo politico i passi sono uno dietro l'altro. Però che modello vuoi raggiungere? Che cosa vuoi diventare? Una superpotenza nucleare? Ci mettiamo tutti sotto l'ombrello delle bombe atomiche francesi piuttosto che quelle americane che sono ospitate sul nostro territorio e non solo su quello italiano? Oppure vogliamo un altro paradigma? Allora dopo è chiaro che vai a costruire un altro paradigma anche nelle relazioni internazionali, e mi pare che proprio oggi come europei non esprimiamo nessuna identità, siamo a rimorchio di chi guida il carro. Quindi prima decidiamo chi siamo, chi vogliamo essere, che comunità vogliamo essere, che continente vogliamo essere. Poi è chiaro che tutto ciò si lega non solo ai temi del riarmo, ma ai temi del clima, dei giovani di seconda generazione che non sono trattati come italiani, si lega al tema di coloro che muoiono alle porte della fortezza Europa durante il loro percorso di migrazione. Non è soltanto una questione di tema specifico di armo o disarmo, è proprio una questione di visione del nostro continente e di quello che il XX secolo ci aveva indicato come direzioni e che, come dire, pare oggi del tutto dimenticato.